Allora, buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Ecco una nuova puntata di Entropia Massima. Questa sera è il filo rosso di Alberto, di nuovo in diretta la seconda puntata di Entropia Massima dal vivo e siamo molto felici di essere tornati qui. Passo subito la parola ad Alberto che ci fa ascoltare il suo filo rosso, le sue notizie legate dal suo filo rosso. Bene, allora cominciamo con affrontare un tema che è quello del riscaldamento globale, che devo dire è sostanzialmente scomparso dalle pagine dei giornali, le pagine delle notizie normali, e restano soltanto le notizie su alcune riviste specializzate, su alcuni supplementi che danno dei dati molto pesanti, però c'è una assoluta trascuratezza o trascurataggine nei confronti del, diciamo, del grande pubblico sul problema ambientale, mentre invece, come abbiamo già sottolineato nella precedente trasmissione, non si deve mai assolutamente dimenticare il fatto che questo virus è nato, cioè il passaggio del virus da animale a uomo è avvenuto a causa di fenomeni ambientali, cioè dai meccanismi della deforestazione, e viceversa tutti i meccanismi che sono entrati in funzione per la lotta al virus hanno fatto emergere con estrema chiarezza una serie di situazioni drammatiche che esistevano già precedenti al virus, ma che venivano trascurate, e oggi sono invece, oggi negli ultimi tre mesi, sono esplosi in maniera estremamente pesante, creando, ci sono state delle reazioni, degli interventi che però coprono una parte soltanto dei fenomeni, e però a questo punto è molto difficile fare un'analisi sociale ed economica della situazione di tutti quei paesi colpiti dal virus senza tener conto di questi fenomeni sociali che finora erano stati denunciati solo appunto da singoli esperti e venivano trascurati dei meccanismi del capitale. Allora vediamo, quindi vi do subito alcuni dati sul riscaldamento che sta procedendo tranquillamente per lui, diciamo, non per noi, e stiamo sicuramente all'inizio di un'estate molto calda, che avevamo già, come dire, preannunciato nelle incontri precedenti. Adesso lo stiamo cominciando a vivere, in particolare un'ondata di caldo cosiddetto anomalo, cioè anomalo per i giornali, ha colpito l'Europa sud-orientale e il Medio Oriente, cioè in sostanza temperature superiori a 40 gradi centigradi a Creta, Cipro, costa della Turchia, tra Israele e la Giordania nella zona di confine si sono registrati 47 gradi, quindi siamo, come dire, verificando che il riscaldamento sta continuando e copre intere regioni non interne agli stati, ma più stati contemporaneamente. La città più calda è una città si chiama Nawalshahr, che sta in Pakistan, dove il 19 maggio il termometro è salito fino a 46 gradi centigradi. La temperatura più bassa si è registrata in Antartide, base Concordia, cioè dopo ne parleremo con più dettagli, è una delle centri di ricerche dove un ristretto gruppo di scienziati fa rilevazioni, raccoglie dati, eccetera, in genere passando più di 9 mesi su un intero anno completamente isolati. Il dato è che hanno rilevato il 19 maggio è meno 73,6 gradi centigradi. Stiamo in Antartide, ovviamente. però contemporaneamente posso dirvi che il 26 sempre di maggio a Nuova Delhi si sono raggiunti 47,6 gradi di riscaldamento, nel Rajasthan si sono superati i 50 gradi, mentre a Montreal in Canada, stessa data, il riscaldamento è arrivato a 36,6 gradi, che è un record storico per questo mese in quel paese. Quindi, come dire, tutti i dati continuano a confermare il meccanismo del riscaldamento globale, contro il quale però ancora oggi non si fa praticamente nulla. Poi c'è una notizia che è interessante, che si è richiuso il più grande buco nell'ozono mai registrato in Artide dal 2011. E questo però non dipende, questa chiusura, cioè il fatto che si è ricreata lo strato di ozono, non dipende dall'inquinamento o dal riscaldamento, ma dal vortice polare, cioè questa fascia di venti che circola circolare sopra il polo nord, che però in questa fase è molto forte e prolungato ed è sempre determinato dal calore, perché è una condensazione della parte ghiacciata. E quindi perché questo è importante? Perché questo strato di ozono non è prodotto a livello della superficie terrestre, è prodotto nell'atmosfera, si produce da solo, perché in pratica sono degli atomi di ossigeno che perdono uno degli atomi, insomma, cioè un meccanismo interno. Però questo strato di ozono filtra le radiazioni solari, quindi tutti i cosiddetti raggi ultravioletti. Cioè, se non ci fosse lo strato di ozono, saremmo già tutti morti da parecchi millenni, no? Ecco, però il problema è che da qualche anno, da alcuni anni, cioè sono da una ventina d'anni, questo strato di ozono in vari posti si buca, cioè noi abbiamo messo in atmosfera dei prodotti chimici, anche quelli che stavano nelle bombolette spray, per capirci. Questi prodotti chimici bucano lo strato, cioè creano degli spazi in cui i raggi ultravioletti passano. Allora, finché questi buchi si aprono sopra un oceano e sopra delle alte montagne, possiamo preoccuparci di meno. Però se si aprono, come è successo in America Latina qualche anno fa, sopra una città, cominciano a esserci degli effetti sulle persone. Quindi, poi qui si può ricordare una cosa, perché abbiamo parlato, credo, l'anno scorso, però nel 1987, per eliminare questi gas di origine industriale che danneggiavano lo strato di ozono, è stato aggiunto un accordo internazionale che si chiama il Protocollo di Montreal, in cui venivano praticamente messi fuori legge, però attenzione, veniva sostituito il gas, cioè i CFC, questi gas dannosi, con un HFC, che si diceva fosse un prodotto che aveva lo stesso effetto, cioè che si prestava agli stessi usi, però non aveva effetti dannosi sull'ozono. Tempo pochi anni si è scoperto che anche questo prodotto aveva effetti negativi, però se ne è parlato molto poco. E soprattutto quello di cui non si parla mai è che questa ricostruzione dell'ozono è ancora, cioè l'eliminazione dei buchi, siamo ancora a percentuali molto basse. L'ultimo dato che ricordo è del 9%, 9-10, saremmo al 15%. Il che significa che il meccanismo di danno dello strato arrecato allo strato di ozono è ancora in corso, malgrado il protocollo, gli accordi internazionali, eccetera. Quindi il fatto che questa, in questo momento, in quella zona sopra l'Artide, sopra l'Artico, si è chiuso questo strato, è una notizia positiva, però ripeto che non dipende da noi, ma dipende da altri meccanismi. Allora, ultimo punto, sempre riguardante il clima in generale, c'è stato fatto un calcolo che suggerirei di prendere con le molle, ma insomma è importante citarlo, che il fatto di aver bloccato il traffico automobilistico e buona parte delle attività industriali ha evitato 11.000 decessi dovuto all'inquinamento. Cioè, questo allora è un discorso un po' pericoloso, nel senso che non possiamo invocare il virus per tutto l'anno in maniera da compensare le morti, eccetera. Il discorso è che il virus ha creato una serie di morti, però ha anche evitato, tra virgolette lo metterei, un certo numero di morti, quindi rispetto all'Italia, rispetto ai 30.000, eccetera. Però l'importante invece è che l'inquinamento generale, quello indipendente dal virus, cioè indipendentemente dal virus, diciamo a condizioni normali, crea 400.000 morti all'anno. Quindi il meccanismo del virus è molto grave, penoso, siamo disperati, eccetera, eccetera, dobbiamo difenderci, però il numero dei morti, malgrado tutto, è poco rispetto all'inquinamento che noi creiamo giorno per giorno e contro il quale non si fa nulla, e soprattutto non c'è nessuna reazione del livello e del grado di intensità di quella che ha causato, che ha messo in moto la macchina della quarantena, della segregazione, eccetera. Quindi sarebbe sempre importante, come dire, riflettere su questi fenomeni che sono purtroppo collegati fra loro, però noi siamo bombardati con tagli specifici, no? E non ci rendiamo conto che invece ci sono degli altri meccanismi sostanzialmente molto più pericolosi. E allora facciamo una brevissima pausa musicale prima di tornare in voce tra pochissimo. 87.9, questa è Radio Onda Rossa, ondarossa.info per chi ci segue in streaming, 87.9 in modulazione di frequenza, siamo a Entropia Massima e questo è il filo rosso di Alberto, a cui passo immediatamente la voce. La seconda parte è dedicata a eventi estremi, cioè quegli eventi che hanno assunto negli ultimi anni caratteristiche molto pesanti rispetto al passato, maggiore frequenza e soprattutto una maggiore intensità, densità dei fenomeni stessi. Per esempio i cicloni stanno sostanzialmente aumentando di velocità, questo in tutti i paesi del mondo, e si sta aumentando il numero, e questo non ce ne rendiamo conto perché non abbiamo informazioni, no? Non seguiamo certi fenomeni, e invece con questa trasmissione stiamo cercando disperatamente di attirare l'attenzione su almeno una parte importante dei meccanismi più drammatici. Allora, i cicloni, ce n'è stato uno nel Bengala con 3 milioni di persone che si sono spostate per evitarlo, eccetera. Il ciclone, i venti andavano a 190 km all'ora. Poi nelle Filippine ce n'è stato un altro con decine di migliaia di persone sfollate. Ci sono stati tempeste tropicali ad Amanda in Salvador, con morti in vari paesi e 7.000 persone costrette a lasciare le loro case. Poi gli incendi. C'è un dato pauroso di cui non abbiamo la percezione. Dal 1 gennaio al 10 maggio di quest'anno in California ci sono stati 675 incendi, quindi non solo quelli dell'estate scorsa che ha coperto molti mesi dell'estate, ma durante tutti i mesi da gennaio a oggi, e ce ne sono stati un numero che sono il 60% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. In Indonesia nel 2019 gli incendi hanno distrutto 1,6 milioni di ettari di vegetazione, foreste e piante varie, e quindi oggi stanno tentando di usare la tecnica della inseminazione, cioè di mettere dei prodotti chimici all'interno delle nuvole per costringerle a creare pioggia nel momento in cui ci sono gli incendi, che è una tecnica abbastanza diffusa, ma insomma non così sicura e certa nei suoi risultati. Poi continuano il meccanismo delle locuste, cioè questa invasione delle locuste, quest'anno sta assumendo, come dire, caratteri internazionali. Ne abbiamo parlato la volta scorsa, però la volta scorsa i dati erano relativi sostanzialmente all'Africa, quindi dallo Yemen, Somalia fino al Kenya, mentre il dato più recente riguarda l'India occidentale e centrale, che è diventato il peggiore evento degli ultimi 25 anni. Ci sono 4 sciami da 40 o 80 milioni di locuste adulte per chilometro quadrato. In 24 ore mangiano quanto 35.000 persone e hanno coperto, mentre si spostavano ogni volta, 50.000 ettari. Allora, il discorso qual è? Una parte di queste locuste erano aborigene, nel senso sono nate e uscite in zone non umide, che però a causa dei cicloni e delle tempeste varie sono improvvisamente diventate molto più ricche d'acqua, e questo ha favorito l'emersione e la diffusione la riproduzione e la moltiplicazione delle locuste. L'altro fenomeno interessante invece che si sta per verificare negli Stati Uniti è che dopo, questo è un fenomeno meno preoccupante, però che si verifica ogni anno, un certo numero di anni, l'ultimo intervallo è 17 anni, quindi insomma un fenomeno periodico, e che sono delle cicale di un certo genere particolare che stanno sottoterra in tutti questi anni. Non è che non esistevano, esistevano, però erano in forma di ninfe, cioè degli animaletti non formati, non completamente formati, eccetera, viventi, degli esseri viventi, però non delle vere e proprie cicale, che però improvvisamente si trasformano nell'individuo adulto e escono all'aperto, e quindi ci saranno rischi per diciamo le persone e l'alimentazione, perché mangiano disperatamente più o meno come le locuste. Ultimo punto che mi sembra importante, che è successo negli ultimissimi giorni del mese di maggio e che a mia conoscenza è ancora in corso, è un disastro che si è verificato nell'Artico, nella zona russa, cioè Siberia nord, il mare di Kara, insomma, a un certo punto, e dove ci sono delle sedi militari, delle basi militari, ma ci sono anche degli impianti di estrazione, e c'era un impianto termoelettrico che alimentava tutta una zona dove estraevano il nickel. C'è una multinazionale russa che controllava tutta la zona, è uno dei famosi oligarchi dell'impero russo attuale, e questi quindi sono usciti improvvisamente. Perché è successo il disastro? Perché questo centro aveva delle cisterne, diciamo dei magazzini per tutti i carburanti, che erano però basati su dei treppiedi, diciamo su delle basi che affondavano nel permafrost, cioè in quello che normalmente è lo strato perennemente ghiacciato che sta sotto il manto nevoso, che si accumula nell'inverno, si scioglie in parte soltanto durante l'estate, eccetera. Il problema è che il permafrost, per motivi a seguito del riscaldamento globale, si sta squagliando, e quindi improvvisamente tutti questi serbatoi si sono inclinati e poi sono caduti e si sono rotti, e quindi è successo che sono usciti 40, aspetta che c'è il dato preciso, 20.000 tonnellate di gasolio che hanno, come dire, invaso tutta la zona. Soprattutto sono andati nei fiumi, i fiumi lo stanno trasportando verso i mari. Questo è quindi è stato denunciato questo disastro in ritardo, quindi pare che Putin fosse particolarmente arrabbiato, e soprattutto far arrivare mezzi di soccorso, personale specializzato, eccetera, è molto difficile, data stanno a 300 chilometri dentro il circolo polare artico. E però fa capire questo discorso, questo tipo di evento, fa capire quali danni ancora una volta stiamo arrecando a questi posti, cioè portiamo dei livelli di inquinamento assolutamente intollerabili, da un lato, e dall'altro che lo stesso meccanismo del riscaldamento li rende più frequenti come incidenti e via dicendo. Poi un'ultima notiziola, che però ne parleremo credo la prossima volta, secondo la FAO, cioè il World Food Program, ci saranno carestie in 30 paesi entro quest'anno. Quindi carestie significa fame, no? però fame, diciamo, non controllabile, non affrontabile con i normali mezzi di uno Stato. E quindi dovremo seguire con attenzione questo tipo di evento nei prossimi mesi. Bene, allora ancora una piccola pausa per tornare tra poco. E ridò la parola ad Alberto con il suo filo rosso. Questa è Entropia Massima su Onda Rossa. Allora, il terzo gruppo di informazioni che volevo passare riguarda gli effetti dei meccanismi di danno ambientale, cioè visti quali sono le conseguenze di questi meccanismi. Per esempio, c'è una fonte che parla, identifica tre battaglie per l'acqua, cioè in sostanza tre situazioni in cui l'acqua sta venendo a mancare. Una è il lago Turkana, nel nord-ovest del Kenya, è un fiume che poi il lago è alimentato dal fiume Omo che parte dall'Etiopia. Però l'Etiopia ha fatto una serie di dighe e quindi il lago Turkana sta perdendo di quantità e qualità, eccetera. E ovviamente ci sono i migranti ambientali nella capitale, provenienti quindi da questa zona del Turkana, che è una popolazione, diciamo, autonoma, che, cioè, insomma, identificabile, sono aumentati del 74%. Poi in Sudafrica, a nord-ovest di Johannesburg, c'è un centro di smistamento del carbone dove ci sono 22 miniere e 450.000 abitanti, con tutte le malattie che derivano dalla polvere nera, insomma, del carbone in polvere. E il Sudafrica però esporta il 6% delle risorse mondiali di carbone, quindi questo posto è drammatico localmente, però dal punto di vista economico è importante. L'acqua perché scarseggia in questa zona? Perché serve per estrarre il carbone, perché le macchine per estrarlo ci sono alimentate e raffreddate, per raffreddare le turbine che producono l'energia. Quindi l'uso del carbone comporta questo uso spropositato di acqua. Questa energia però va a alimentare anche il Mozambico e lo Swaziland, che è interna al Sudafrica. Poi, terza situazione, Lago Vittoria. Lago Vittoria è il secondo del mondo, quindi è un lago immenso, ed è la fonte del Nilo Bianco. Il Nilo Bianco è una delle fonti del Nilo, quindi arriva fino al Mediterraneo. E ci sono tre stati, Tanzania, Uganda e Kenya, e poi ci sono 60 milioni di persone. E il problema è che la pesca sta finendo, nel senso che non si riesce più a effettuare, e ci sono però 800.000 persone che sono pescatori e 2 milioni di persone che sono le famiglie dei pescatori. Ecco, però l'acqua c'è meno, c'è tutta una serie di problemi di concentrazione dell'acqua e dell'inquinamento dell'acqua, eccetera. Ovviamente ci sono anche gli scarichi che sono di rifiuti che vanno a finire nel lago. E poi qui c'è un dato impressionante: 5.000 pescatori che muoiono ogni anno per le tempeste che si verificano su questo lago. Quindi ci dobbiamo immaginare un lago che è un mare, in sostanza una specie di mare interno, e non so se il dato è giusto, ma insomma era riportato in questi termini. Poi sulla barriera corallina ci stanno una serie di problemi nuovi, soprattutto per la grande barriera corallina, quella che sta sul fianco dell'Australia, che sono 2.300 chilometri, però al centro di questa barriera corallina, cioè sulla costa, è stato concesso a una multinazionale che si chiama Carmichael, ha ricevuto il permesso di di estrarre carbone, quindi in una zona particolarmente colpita, perché tutto il riscaldamento del mare ce la sta creando problemi, a questo ne abbiamo già parlato altre volte. Quindi la barriera corallina è in larga parte, per più di metà, sbiancata, cioè sono morte le piccole alghe che alimentano gli animaletti che creano il corallo, no? Quindi la situazione, insomma, continua a essere estremamente pesante. L'altro elemento che vi volevo ricordare, c'è un articolo che devo dire onestamente mi ha colpito molto, e però suggerirei di leggerlo, nel senso che sono 4 pagine, parla della città di Lima, della capitale del Perù, nella zona della Nueva Esperanza, dove ci sono 10 milioni di persone, perché la capitale si sta ingrandendo continuamente, perché la gente non riesce più a sopravvivere nelle periferie e va nella capitale, e siamo arrivati a 10 milioni di persone. tutti i nuovi arrivati non hanno case, hanno capanne e non c'è rifornimento d'acqua per questa quantità di persone. E c'è tutto, è difficile da spiegare, c'è un'azienda pubblica, però ci sono le aziende private, ci sono le truffe, ci sono costa prezzi diversi a seconda della situazione, quindi uno sfruttamento pazzesco della gente che è costretta a comprare l'acqua e soprattutto non ce n'è in quantità sufficiente neanche rispetto ai minimi proprio stabiliti a livello internazionale. Quindi io ve lo, sta sulla la rivista internazionale, l'ultimo numero sta ancora in edicola, però l'ho letto accuratamente, onestamente non sono riuscito a sintetizzarlo perché è un inferno, cioè una situazione di complessità per cui il governo in realtà non riesce a pensare a questo tipo di problema, cioè c'è una situazione che si aggrava, io conoscevo questo problema già parecchi anni fa, adesso deve essere evidentemente ulteriormente peggiorato, però in sostanza non c'è nessuna politica, nessun tentativo in corso per modificare la situazione, e questo emerge con chiarezza appunto nell'articolo. E quindi è una situazione assolutamente infernale in una delle città più belle del Sud America, eccetera, eccetera. Bene, poi che altro argomento? Oh, c'è un articolo, anche questo molto preoccupante, cioè che l'Argentina sta per fallire per la nona volta. Ecco, stanno ancora in trattative, ci sono in corso, eccetera, però si è aggiunto il virus, no? E quindi c'è una situazione in un altro paese molto bello, molto importante, che sta lottando per sopravvivere. Poi quali altri dati si possono raccontare? Ma ci sono, c'è una miniera d'oro che sta per aprire in Armenia, una miniera d'oro sul monte Amulsar, e c'è il rischio, il governo sta esitando, ondeggia, dice vuole bloccarlo e poi lo rifà aprire, insomma così ancora non ha cominciato, però c'è il rischio di una cosa che è molto importante di cui abbiamo parlato, cioè che c'è la possibilità che la multinazionale possa citare il governo per danni, che è un po' la situazione che si potrebbe anche prevedere per la Ilva di Taranto, no? Cioè un privato che può aggredire lo Stato, e quindi c'è la possibilità anche di fare degli arbitri che però sono privati, eccetera. Cioè insomma, cioè nasce tutto un contenzioso che non rispetta più, come dire, il diritto internazionale, i rapporti tra imprese, stati, eccetera. Quindi è importante questo discorso non tanto per il meccanismo attuale, insomma, il rischio, quanto per questo rischio per l'intero Stato di essere sottoposto a questo tipo di attacco. Poi credo che siamo verso la fine. Facciamo un'altra cosetta. Un altro pezzetto? Sì. Facciamo pausa e poi riprendiamo. Come? Possiamo fare un'altra breve pausa e poi facciamo l'ultima parte. Vabbè. E allora parte subito un po' di musica con Ragagliato. We'll be right back. Bella regà, questo è Fuori dal Centro. Noi veniamo dall'hip hop, che di natura è un movimento antifascista e antirazzista, e amiamo la musica. Perciò non possiamo che supportare Radio Onda Rossa. Fatelo anche voi, perché è una realtà importante, quanto è importante il sostegno di ognuno di noi. Tantissimi auguri dai Fuori dal Centro. Gia! E è partito anche lo spottino, ma va bene così, e quindi ripasso comunque la parola ad Alberto per l'ultima parte di Entropia Massima con il suo filo rosso sugli 87.9. Allora, quest'ultima parte è un po' nuova, diciamo. Finora mi sono sempre concentrato su fornire indicazioni sui meccanismi in atto, sui danni arrecati. Insomma, l'aspetto, la descrizione, l'obiettivo era far percepire con cognizione di causa la portata dei problemi che stiamo attraversando. Adesso volevo aggiungere qualche cosa che non è la soluzione di questi problemi, perché siamo lontani da questa ipotesi, però dei punti di riflessione, no? E, ripeto, non c'è nessun ottimismo in quello che sto dicendo, sono dato altre informazioni che potrebbero anche essere indurre al suicidio, diciamo, nel senso che sono sconcertanti, però hanno delle, cioè potenzialmente potrebbero dar luogo a un cambiamento, però insomma la potenzialità è molto lontana. Allora, per esempio, una serie di misure che sono state adottate o consigliate per le città, quindi l'uso delle biciclette, la riduzione del traffico, le misure per tutte le fasce più vulnerabili, diciamo i più poveri, povertà estreme, eccetera, è l'accertamento, cioè come dire, la sperimentazione di una città meno inquinata, no? Potrebbero essere, come posso dire, un campo da sperimentare, un campo da verificare, da tenere presente. Come posso dire, le percentuali di mancata attuazione di queste cose è molto alta, no? Quindi non c'è ottimismo. Però è interessante vedere che alcune indicazioni di politica alternativa ci sono sul tappeto. Allora dovremmo anche fare un po', come dire, un esame di coscienza per le sinistre o la sinistra, comunque la si voglia definire, per cosa possiamo fare per utilizzare queste opportunità che sono sotto i nostri occhi e che potrebbero diventare invece la normalità di un sistema un po' meno dannoso, mettiamola così. Quindi è un accenno, però posso anche ricordare che la banca Intesa San Paolo sta limitando il credito che concedeva alla attività legate al carbone, che è un segnale, no? Assolutamente non cambia il quadro, non il quadro italiano, soprattutto non il quadro in Polonia o in Cina, cioè in altri paesi dominati ancora dall'utilizzo del carbone. Però è un'indicazione di strada possibile, no? Cioè il poter incidere sul credito e dare priorità diverse alle concessioni di credito. E contemporaneamente si potrebbe pensare a una politica di incentivi delle aziende, per le aziende che è cominciano a essere un po' più verdi, cioè si cominciano a preoccupare non di una completa riconversione, perché di questo non mi pare che ci sia traccia, ma per delle industrie che siano relativamente meno inquinanti. Ancora, sempre in questa prospettiva così non ottimistica, devo segnalare che qualche mese fa 200 grosse imprese hanno fatto un manifesto che sostanzialmente diceva: non possiamo porci solo il profitto come obiettivo delle nostre attività. Quindi, come capite bene, non era una scelta in favore del clima o di altre, ma diceva soltanto: forse il profitto in maniera assoluta e unica forse non va bene, no? Cioè un dubbio. Però erano 200 grosse imprese, quindi il fatto che siano state pervase da un dubbio, insomma, può essere utile. E lo stesso è avvenuto qui, già più definito, un manifesto firmato da 110 imprese che si dichiarano in favore della green economy. Ora, la green economy, come sapete, è capitalistica, cioè non è la soluzione dei problemi. Però, insomma, potrebbe significare qualcosa se queste imprese poi volessero realmente diventare almeno verdi, no? Verdi significa che si fanno meno danni ambientali e si mantiene il sistema capitalistico in piedi. Quindi la green economy non può essere vista in termini di soluzione alternativa, è un nuovo tentativo che fa il capitale di sopravvivere in condizioni ambientalmente più rischiose. Però è intanto un cambiamento, quindi sto cercando di vedere, come dire, alcuni aspetti utili. È un penultimo punto è che hanno scoperto che contro la xylella, cioè questo strano animaletto che sta distruggendo gli olivi in Puglia, alcune persone hanno cominciato a usare acqua e aceto con ottimi risultati. Questo non sono in grado di valutarlo sul piano scientifico, questa notizia, però insomma mi ha fatto sorridere, quindi lo cito. L'altra invece cosa un po' più impegnativa, un po' più interessante, è la strategia dell'Unione Europea. Anche in questo caso sottolineo, non penso che l'Unione Europea sia all'avanguardia nella lotta per l'ambiente, però hanno cominciato a pubblicare due documenti, uno sulla che definisce una strategia per la protezione e il recupero di aree naturali, quindi l'Unione Europea e gli enti dell'Unione Europea, quindi la Banca Europea degli Investimenti, eccetera, dovrebbero tener conto di questi due documenti strategici, cioè di lungo periodo. Quindi sono assolutamente inadeguati, non sufficienti, eccetera, eccetera, però insomma è un segnale. Quindi aree naturali, quindi protezione di aree particolari. Quindi sì, le grandi città non sono comprese, eccetera. L'altro punto è il settore alimentare, quindi fare attenzione al cibo, a tutto la filiera della produzione del cibo. Quanti anni ci metterà l'Unione Europea a mettere in piedi alcune di queste idee è un problema indiscutibile, però ci sono dei testi che cominciano a parlare di questi problemi. E poi ci sono alcuni obiettivi che riempiono un po' la bocca: dovrebbero piantare 3 miliardi di alberi, riportare allo stato naturale 25.000 chilometri di fiumi. Ecco, però l'hanno detto, lo hanno scritto, che significa non si sa, che quanto tempo eventualmente ci mettono, soprattutto quali sono questi fiumi e perché dovrebbero essere proprio quelli riportati allo stato naturale. Che cosa poi si intende per stato naturale di un fiume oggi? Anche questo credo che tecnicamente sia da discutere. E punto, l'ultimo elemento è che ho un articolo, se qualcuno poi lo volesse vedere posso dare l'indicazione, e questo è rivolto a chi ha un piccolo terrazzo. Cioè qui c'è, in questo articolo ci sono tutti i nomi delle piante che favoriscono le farfalle e che favoriscono le api che non fanno il miele ma che sono impollinatrici, come le api normali, che si chiamano osmie. Ecco, quindi se qualcuno poi è molto interessato a questa cosa, possiamo fornire l'elenco. Anche in questo caso non sono in grado di giudicare la validità dei suggerimenti, però insomma un balcone fiorito è importante. E benissimo, quindi siamo arrivati al termine della trasmissione con qualche minuto di anticipo, ma rimedieremo con un po' di musica, e quindi ci vediamo lunedì prossimo, sempre Entropia Massima, sempre verso le 8, su 87.9 in modulazione di frequenza, ondarossa.info, per chi vuole ascoltare in streaming. Un saluto a tutte e a tutti.